Credi di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi, yeah. Lo sai cosa mi fai, quanto sarò male quando smetterai, hey. Quando fai così sembra quasi che pa pa pa pa come sempre ring. Che freddo fa quando non sei qui. Ok ok, sento brividi, mi restano sulla pelle come lividi. Pa pa pa, lo so, tanto non smetterò, no. È il tuo odore che mi fa stare sveglio, ma mi drogherò di te, io mi drogherò di te, mi drogherò. Sai che ne ho bisogno, è come se ehi, ehi, mi drogherò. 5 anni fa, pagando un po', porta chiusa, necessità di sentirci vivi. Sento dei passi, qualcuno bussa, shh. Andate via da qui. No, no, da un po' voglia di sentire le vostre cazzate. Non so se sto insieme a lei perché non vi sopporto. Pa, pa, pa, lo so, tanto non smetterò, no. È il tuo odore che mi fa stare sveglio, ma mi drogherò di te. Fragile, che ti bruci come una Lucky Strike. Quando sei con me, che restassimo da soli tra noi, per farti usare, farmi odiare tutti, ma sì tutti, ma sì tutti, ma mi drogherò.